Letture di Radio 24. L'amore e la cura è il primo libro scritto da Elton John, un titolo che rappresenta il messaggio che il cantautore inglese vuole lanciare a tutti quelli che si pongono l'obiettivo di lottare contro l'AIDS. Nei suoi 20 anni di attività, la Elton John AIDS Foundation ha investito oltre 275 milioni di dollari nella ricerca e prevenzione contro la malattia. Un impegno che nasce quando, negli anni Ottanta, Elton viene a conoscenza del caso di Ryan White, un ragazzino emofiliaco che aveva contratto l'AIDS durante una trasfusione. In quegli anni non c'era alcun rimedio contro la malattia e la scarsa informazione, unita alla paura del contagio, favoriva un clima di isteria collettiva. I malati venivano emarginati e spesso ritenuti colpevoli del loro stesso male, associato fin dall'inizio alla comunità omosessuale e tossicodipendente. Al piccolo Ryan viene impedito di frequentare la scuola e solo dopo una lunga battaglia un giudice lo riporterà in classe. Ma attorno a lui e alla sua famiglia permane un clima di diffidenza e paura, che spesso sconfina in vero e proprio odio. Ryan veniva irriso e tormentato non solo a scuola, ma in tutta la cittadina. Si sentiva dare del frocio o apostrofare in pubblico con altri insulti omofobi. L'armadietto scolastico con le sue cose fu messo a soqquadro e sul conto del ragazzo venivano diffuse le voci più squallide. Un anonimo adolescente scrisse una lettera al giornale locale nella quale accusava Ryan di aver minacciato di mordere e graffiare i coetanei, di aver sputato sul cibo in un negozio di alimentari e persino di aver urinato sui muri del bagno. Erano menzogne, ovviamente, ma non importava a nessuno. Essere malato di AIDS rendeva Ryan un mostro e come tale il ragazzo veniva considerato, a prescindere da quello che facesse o non facesse. Per quanto impossibile possa sembrare, gli adulti lo trattavano ancora peggio. Ci fu chi annullò l'abbonamento al giornale locale per non vederselo consegnato da lui. Quando Ryan e i suoi uscivano a cena, i ristoranti buttavano via i piatti che avevano usato. I genitori della fidanzatina di Ryan le proibirono di continuare a frequentarlo. A un certo punto della battaglia legale fra i White e la scuola, un gruppo di genitori chiese alle autorità di contea di revocare a Jean la potestà genitoriale in modo che Ryan le venisse sottratto e di conseguenza ritirato dalla scuola. Non solo Ryan, ma tutta la sua famiglia era costretta a subire intimidazioni e ostracismo. A Jean tagliarono gli pneumatici. Una delle finestre della casa fu infranta da un proiettile. Venivano molestati e oltraggiati persino i parenti lontani di Ryan e gli estranei che prendevano le difese del ragazzo. Quando il giornale locale si schierò a favore del diritto di Ryan di frequentare la scuola, l'abitazione dell'editore fu bombardata di uova. Un giornalista ricevette addirittura minacce di morte. Era come se la condizione di Ryan tirasse fuori il peggio dalla gente e per il ragazzo e la sua famiglia nemmeno la chiesa sembrava offrire un rifugio. I White erano persone di profonda fede cristiana. Ryan pregava insieme alla madre tutte le sere, prima di andare a letto. Una volta diffusasi la notizia della malattia, la comunità metodista a cui appartenevano cominciò tuttavia a emarginarli. Tale era la paura del contagio che i parrocchiani costringevano i White a sedersi nel primo o nell'ultimo banco ed evitavano di usare il bagno della chiesa se c'era appena stato Ryan. I genitori raccomandavano ai figli di evitarlo. Nonostante l'ostracismo ricevuto dalla comunità civile e religiosa, nonostante le sofferenze e i disagi che lo accompagnavano da sempre, Ryan non perse mai la fede e la carità cristiana. Appena un anno prima di lasciarci, intervistato dal Saturday Evening Post, dichiarò di non temere la morte proprio grazie alla fede in Dio. Nonostante le sue condizioni di salute continuassero ad aggravarsi e nonostante dovesse sopportare tutte quelle ingiustizie da ipocriti fanatici religiosi, la sua fede era più salda che mai. «Col Signore c'è sempre speranza», disse Ryan al giornalista del Post. «Ho grande fiducia in Dio». Come altri milioni di persone, quando lessi la storia di Ryan su quella rivista, provai un moto di indignazione. Soprattutto, provai il desiderio spasmodico di fare qualcosa per lui e per la sua famiglia. «È una situazione intollerabile», mi dissi. «Devo aiutarli». Il suo aiuto si concretizzerà con la nascita della Elton John AIDS Foundation, impegnata nella ricerca e prevenzione contro la malattia. Dopo aver raccontato i risultati ottenuti nei 20 anni di attività della Onlus, Elton spiega perché è convinto che l'AIDS si possa e si debba sconfiggere. Forse state pensando che sono ingenuo, banale, semplicista. L'ennesimo VIP che dà vita a una fondazione. L'ennesima rockstar che crede di avere la risposta ai mali del mondo. L'AIDS è una malattia mortale che non possiamo certo sconfiggere con l'ottimismo e i buoni sentimenti. Questo è il mondo reale. E non è affatto un bel mondo. Com'è possibile che l'amore sia la cura di tutte le divisioni? Di tutto l'odio che avvelena il pianeta? Eppure, per quanto riguarda l'AIDS, l'amore è davvero la cura. Anzi, al momento e per il prossimo futuro, è l'unica cura. L'AIDS è diverso dalle altre malattie. Verrebbe quasi da dire che è speciale. Pensate alla differenza con il cancro. Se fossimo capaci di curare tutti i malati della Terra, se a tutti si potesse assicurare la terapia migliore, più all'avanguardia, gli uomini continuerebbero comunque ad ammalarsi di cancro. Molti, purtroppo, morirebbero nonostante le cure. Considerazioni analoghe valgono anche per altre patologie che rappresentano le principali cause di morte nel mondo: le cardiopatie, il diabete, l'ictus. Le attuali conoscenze scientifiche non sono in grado da sole di cancellare questi mali che non sappiamo ancora come curare con certezza o di cui non sappiamo ancora prevedere appieno l'insorgenza. Prima di arrivare a una soluzione definitiva, saranno necessari ulteriori sviluppi della ricerca medica. Diverso è il caso dell'AIDS. Anche se oggi la ricerca si interrompesse di colpo, anche se non scoprissimo nient'altro sul virus HIV, avremmo comunque gli strumenti per vincere la battaglia. Saremmo in grado di salvare quasi tutte le persone sieropositive e prevenire tutte le future infezioni. Potremmo sconfiggere l'AIDS. È un dato di fatto straordinario che rende tutto sommato unica questa pandemia rispetto alle altre. Oggi, pur non disponendo ancora di una cura per l'AIDS, abbiamo il surrogato migliore possibile. Farmaci che possono strappare i pazienti a morte certa e riportarli in ottima salute, assicurando loro una vita molto lunga. Come per numerosi altri farmaci, anche quelli anti-AIDS provocano a volte spiacevoli effetti collaterali. Alcune persone, come il mio amico Eli, perdono ugualmente la vita a causa di complicanze, pur avendo ricevuto le migliori cure mediche. Le terapie attuali però salvano la vita nella grande maggioranza dei casi, e questo è l'importante. L'HIV non è più una sentenza di morte. Grazie ai farmaci, l'HIV smette di essere un virus letale e l'AIDS si trasforma in una malattia cronica che può essere tenuta sotto controllo. Grazie ai farmaci, quasi tutti i sieropositivi possono vivere felici e senza disagi, conducendo un'esistenza produttiva. In una parola, per ricordare l'unico desiderio del mio amico Ryan, possono vivere normalmente. Oggi si può essere sieropositivi e vivere una vita davvero normale. Inoltre, se rendessimo questi farmaci universalmente disponibili, con un po' di tempo potremmo porre fine all'epidemia di AIDS una volta per tutte. Vi potrebbe magari venire il dubbio che sia troppo costoso fornire cure e prevenzione a tutti coloro che ne hanno bisogno. Tutto sommato, per un mucchio di cose al mondo, è solo una questione di prezzo. Se una cosa del genere fosse possibile, se potessimo permettercela, l'avremmo già fatto, concluderà la maggior parte di voi. Deve essere il denaro il motivo per cui l'umanità non ha preso tutti i provvedimenti necessari per sconfiggere l'AIDS. Vorrei davvero che fosse così. Vorrei che fosse soltanto una questione di risorse, ma non lo è. È una questione di compassione. Tutto dipende dall'amore. Nel 2011 un gruppo di esperti ha condotto un approfondito studio congiunto mettendo a punto un modello che simulava tempi e costi necessari per sconfiggere l'AIDS, nell'ipotesi di impiegare tutti i farmaci esistenti e tutti i metodi di prevenzione riconosciuti come affidabili. La conclusione è stata sbalorditiva. Sappiamo come sconfiggere l'AIDS e sappiamo quanto costerebbe. Ulteriori 5-7 miliardi di dollari l'anno, da qui al 2020, e non molto più di quanto stiamo spendendo oggi dopo il 2020. Di primo acchito sembrano un sacco di soldi, ma quando si confrontano queste cifre con quelle relative ad altre spese, ci si accorge che non si tratta poi di una somma così rilevante. Anzi, si tratta di una somma minuscola, quasi insignificante all'interno del grande schema delle cose. La mia posizione è semplicemente questa. I pochi miliardi di dollari aggiuntivi necessari per sconfiggere il morbo sono un'inezia se paragonati anche solo a piccole istantanee del commercio globale. Con questo non voglio dare a intendere che il denaro sia l'unica cosa di cui abbiamo bisogno per sconfiggere l'AIDS. Il denaro è assolutamente necessario, ma senza ombra di dubbio non sufficiente. Accanto a maggiori risorse finanziarie è altrettanto fondamentale una maggiore solidarietà. Ed è a questo punto che entrate in gioco voi, miei cari lettori. L'AIDS è una malattia che non attacca soltanto il sistema immunitario, ma anche il sistema sociale. L'AIDS infetta di paura le istituzioni civili, di odio e intolleranza le comunità, di avidità le aziende, di disprezzo le chiese, le sinagoghe e le moschee. Per questi mali sociali non c'è cura. Non c'è ritrovato della scienza con cui possiamo vaccinarci. Ecco perché, se vogliamo curare l'AIDS, dobbiamo prima cambiare i cuori ed educare le menti. Nessuno è esente da colpe in questo terribile intreccio di apatia, me compreso. Sono il primo ad alzare la mano per ammettere di non aver fatto abbastanza, di non averci tenuto abbastanza. Ma se sono cambiato io, può cambiare chiunque. Istituzioni, comunità locali, la società in senso lato. Ne sono convinto con tutto me stesso. Se non ne fossi convinto, non avrei scritto questo libro. Mi sarei semplicemente arreso. Ma non mi arrenderò. Non lo farò mai perché ho visto all'opera la forza della compassione. Non mi arrenderò perché credo nell'amore. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Elton John, L'amore e la cura. Bompiani, 236 pagine, 16 euro. For just this sky.